Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Pronti, si parte. Intanto buongiorno, inizia una nuova giornata, nuove sfide ci attendono e così ogni giorno abbiamo qualche impegno da affrontare, qualche preoccupazione, un po' di magari agitazione per l'attesa di un risultato, e così è la vita. Ci mettiamo anche un po' di ansietta, è una sorta di condimento, e questo è un po' il mix per affrontare la giornata. Ma quando l'ansia diventa troppo, quando diventiamo troppo preoccupati, quando abbiamo troppa paura di non farcela, ci sentiamo troppo sotto pressione, beh, lì possono iniziare i problemi, nel senso che rimaniamo come incastrati, in gabbia. Ma attenzione, ci sono delle buone notizie. La ricerca neuroscientifica, che fa dei progressi continui, riesce oggi a individuare i vari tipi di ansia e soprattutto a suggerire anche delle indicazioni. Ne parliamo oggi con il professor Nicola De Pisapia. Buongiorno professore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ricercatore del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento, che ha coordinato uno studio che professore fa al caso nostro. Intanto io ho un po' descritto quello stato un po' di tensione, un po' di paura che tutti noi abbiamo magari nel corso della giornata. Insomma, siamo un pochino tutti chiamati ad affrontare dei compiti, a volte questo ci fa aumentare un po' l'agitazione, magari mina la nostra autostima, però è nel gioco delle cose. Magari anche lei, no? Prova le stesse, magari la lezione, il risultato che aspetta. Professore, è normale, certo, siamo uomini. Certo, è una risposta comportamentale molto antica che condividiamo anche sicuramente con i mammiferi. È una risposta in un certo senso di difesa, cioè quando l'organismo o l'animale o la persona si sente a rischio di essere attaccato, allora un po' di ansia ci fa difendere, quindi tutta una serie di sintomi che di solito sono collegati all'ansia in realtà hanno un senso come un meccanismo di difesa che l'organismo vorrebbe innescare. I problemi nascono quando questo movimento di difesa diventa eccessivo, diventa preponderante o addirittura immaginario, nel senso che possiamo avere una risposta d'ansia non per qualcosa che sta realmente succedendo, ma che noi ci preoccupiamo che magari possa accadere nel futuro. Poi sa, professore, che è proprio una frase tipica, no? Ci si incontra e di come va? Ho un'ansia, vero? Si dice così, non so se certo, lo dite anche certo voi tra ricercatori dell'Università di Trento, però quando noi ci sentiamo un po' stanchi, sotto pressione, tiriamo fuori, ho un'ansia che non ti dico. Sì, che da un lato ci fa un po' sfogare, quindi assenso, dall'altro però può anche creare, diciamo, una sorta di contagio d'ansia, cioè una propensione magari a lamentarsi di più di quello che è necessario. Quindi bisogna sempre mantenere un equilibrio, si tratta di aspetti emotivi. Certo, voi avete fatto uno studio molto interessante, professore, che dà un contributo importante per capire la natura di questa agitazione del nervosismo e anche per intervenire quindi in modo efficace su questi disturbi, meglio quando si manifestano, cioè appena si manifestano. Sì, in sostanza siamo andati a guardare il cervello di una quarantina di persone e abbiamo misurato in loro la propensione a sviluppare due tipi di ansia che vengono distinti in letteratura. Cioè un'ansia che viene chiamata di stato, cioè io sono in questo momento in uno stato d'ansia perché c'è un evento particolare che me la fa scaturire. E pensavo che dicesse che perché sono al telefono con lei. Per no, esempio, ma questo no, no, ero o più dal lato mio, perché ovviamente non faccio interviste spesso, quindi magari un pochino di ansia collegata appunto ad un evento temporaneo, finisce l'evento, finisce l'ansia. In questo caso parliamo di ansia di stato. Diversa invece è l'ansia di tratto, che come la parola suggerisce è proprio un tratto della personalità dell'individuo, cioè quasi indipendentemente da quello che accade, questa persona con un alto tratto d'ansia manifesta tutta una serie di sintomi come battito cardiaco accelerato, respiro accelerato, tensione muscolare, eccetera, eccetera, diciamo permanentemente, quindi in una forma direi quasi cronica. Ecco, queste sono due forme che possono essere misurate e noi le abbiamo misurate nei nostri soggetti, quindi chi aveva per esempio un'alta ansia di stato in quel momento perché doveva fare un esperimento scientifico e quindi magari era un po' ansioso, ma comunque magari aveva una bassa ansia di tratto, oppure altre persone che invece avevano un'alta ansia sia di stato che di tratto, quindi sono un po' distribuiti su tutti i valori. Però ecco, la verità è che abbiamo anche guardato il loro cervello utilizzando una risonanza magnetica, che è uno strumento che abbiamo a disposizione nei nostri laboratori all'Università di Trento, che ci ha permesso di vedere due cose in parallelo. Uno, ci ha permesso di guardare l'anatomia del cervello di queste persone, quindi proprio l'organo in sé, diciamo, no? Un'altra cosa invece abbiamo potuto anche fare era guardare le attività del cervello dei nostri soggetti, che ovviamente sono cose diverse, riguardano consumo di ossigeno, flusso del sangue, attività metabolica, diciamo, no? Ecco, abbiamo potuto vedere queste due cose, anatomia e attività, e abbiamo correlato ai livelli di ansia che abbiamo misurato. E quindi abbiamo potuto vedere quali tipi di circuiti cerebrali o quali tipi di attività cerebrali correlavano con queste diverse forme di ansia. Professore, mi sembra che il vostro studio evidenzi anche quanto sia importante fare in modo che nella persona che ha l'ansia di stato, quindi quella, no, causata da un problema, da una condizione temporanea, non si trasformi in ansia cronica, no? In ansia di tratto, che poi è l'ansia cronicizzata. Un po' come quando parliamo di mal di testa, che da un mal di testa episodico non diventi un mal di testa cronico. Come si fa? Sì, perché quello in effetti che poi abbiamo trovato, no, nei nostri risultati è proprio che l'ansia di stato va, diciamo, ha un riscontro nell'attivazione del cervello che diciamo sorge, si attiva in quel modo e poi dopo si spegne e ritorna in una fase di riposo. Invece l'ansia di tratto è correlata invece proprio a strutture anatomiche, cioè proprio il modo di essere del cervello, non solo il modo di funzionare temporaneo, ma proprio i suoi circuiti, in particolare alcuni circuiti che sono legati al rimuginio, si vede che sono più forti nelle persone con tratti. Ma professore, c'è una sorta di predisposizione? Ci sono dei cervelli con dei circuiti che predispongono all'ansia? Io me li vedo come delle serpentine, insomma. Lei ride, in generale, però certo. No, ma è così, sono dei circuiti anche molto complessi, ma diciamo una predisposizione genetica c'è sempre di base, sì. Però comunque quello che conta poi in queste cose emotive molto è lo stile di vita, cioè in realtà l'ansia, è vero che noi tutti nasciamo con diverse potenzialità di essere ansiosi, però poi conta moltissimo quello che noi facciamo. Ma lei come fa, professore? Lei che l'ansia la studia, ha visto il cervello delle persone ansiose, è un esperto, è qua di mattina con noi, è Obiettivo Salute Risveglio, e io le chiederei un po' di aiutarci a programmare una giornata in cui ci teniamo solo l'ansia, quella che ci serve, perché abbiamo capito che insomma serve, non è che dobbiamo pensare che ci faccia solo male, ed evitiamo, mettiamo fuori dalla porta quella che non è utile, anzi evitiamo il rischio che da temporanea ad acuta si trasformi in cronica. Il primo passaggio è capire che noi l'ansia, lo stress, in realtà li possiamo apprendere. Quindi se io durante il giorno, diciamo così, mi alleno a provare spesso l'ansia, no? Sono molto preoccupato, ogni cosa ne vedo tutti i problemi, le conseguenze, tutti i miei circuiti cerebrali mi predispongono maggiormente a provare l'ansia domani e quindi a trasformarla in un'ansia di tratto. Se invece al contrario, io so che posso intervenire nei miei circuiti cerebrali abbassando l'ansia, diminuendola, io progressivamente diminuisco il mio tratto. Allora, come faccio a diminuire l'ansia? Beh, prima di tutto c'è una componente molto fisica, no, dell'ansia, cioè il respiro affannato, la tensione muscolare. Noi su queste cose qua possiamo intervenire con la nostra volontà. Quindi ovviamente non quando siamo sotto un attacco d'ansia, ma prima, in maniera preventiva, quindi per esempio all'inizio della giornata, no? Prima di affrontare le varie cose che ci aspettano, fare un po' di respirazione controllata, profonda, un flusso diciamo naturale ma di cui noi siamo consapevoli e che naturalmente si rallenta. La stessa cosa sulle tensioni muscolari, essere un po' più consapevoli del fatto che se noi ci preoccupa qualcosa, ci tendiamo i muscoli sulle spalle, all'altezza della pancia, certo, la schiena, prendere posizioni strane. Ecco, diventare più consapevoli delle risposte automatiche del corpo, facendo essere un po' meno automatiche, un po' più sotto la nostra volontà. Imparare a respirare, imparare a rilassarsi e in forme più avanzate anche a fare meditazione ha degli effetti fortissimi di trasformazione positiva per le persone. Io la ringrazio per essere stato con noi, proveremo, inizieremo già adesso la giornata con una bella respirazione. La ringrazio, l'aspetto per una prossima puntata, rimaniamo in contatto. Grazie professore. Grazie a voi, grazie a Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Prima di darvi appuntamento, come sempre, per il GR, dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca, vi invito a fare un saltino sulla pagina Facebook del programma, dove vi mettiamo gli esercizi di respirazione che vi abbiamo già proposto, qualora voi decidiate di effettuare una respirazione profonda, quelli di meditazione di Daniel Lumera e gli esercizi per sciogliere le tensioni muscolari. Insomma, vi confezioniamo un pacchetto con tutti gli attrezzi. Grazie, buona giornata.